Effetto Mondo. That Matthew 25, I'm a Matthew 25 Christian, that's what I am. I was hungry and you fed me. I was thirsty and you gave me something to drink. I was sick and you visited me. Love your neighbor. And for me that means you don't get rid of your neighbor's health care, particularly in the middle of a pandemic. Buongiorno, buongiorno Giulia. Allora, questa volta cosa c'è? Stavo per dire a cosa ci hai sottoposto, perché questa chi era che parlava? A volte questa sono è la anche voce delle, del delle reverendo chicche. Raphael sì. Warnock, che in questo momento lui è un cristiano pentecostale e diceva: sono un Matthew 25 cristiano. Sono andata a vedere cosa vuol dire, perché non sono poi così, certo io sono stata cresciuta nella religione cattolica ma non sono particolarmente pratica di testi religiosi, è il capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo, quindi Matthew 25, che è quello che contiene tre parabole, quindi quando avevo sete mi avete dato da bere, quando avevo fame mi avete dato da mangiare. E questo era questa clip è presa dal dibattito che c'è stato ieri sera con Kelly Loeffler, che invece è la candidata repubblicana. Si vota, lo ricordiamo, il 5 gennaio, è uno dei due posti al Senato che decideranno di fatto se il Senato sarà repubblicano o democratico. Il reverendo Warnock è del 69, insomma la mia età, e giovane. Ricordiamolo, lo stato della Georgia per la prima volta da 28 anni era quando durante le elezioni di Bill Clinton nel 92 è passato al Partito Democratico, ma sappiamo che in questa tornata si votava anche per alcuni seggi al Senato, quindi per quanto riguarda il Senato questa corsa è abbastanza, dicono i sondaggi, abbastanza alla pari al momento. Il reverendo Raphael Warnock è un personaggio abbastanza, insomma, è un nero, tanto per, visto che abbiamo sentito solo l'audio, e pensate che in questo momento lui è di servizio, diciamo, alla stessa chiesa dove predicava Martin Luther King, quindi parliamo insomma di un personaggio di un certo rilievo. È della Georgia, appunto. Quindi stato profondamente dove le questioni razziali sono molto importanti, vedremo se avranno un peso. Sui giornali americani si parla di questo, ma anche, e cinicamente qualcuno dice, ma guardate un po' che combinazione, ieri Joe Biden ha annunciato la sua scelta per il Ministero della Difesa, il Secretary of Defense, e sarà Lloyd Austin, che è a sua volta un afroamericano. Sarebbe la prima volta che un afroamericano ricopre questo ruolo. Qualcuno ricorderà Colin Powell, che però era di origini giamaicane, quindi non è esattamente la stessa cosa, e fu tra l'altro con il primo mandato di George Bush fu segretario di Stato, quindi l'equivalente del Ministero degli Esteri. Perciò insomma questa nomina, che naturalmente di cui parlano tutti i giornali americani, potrebbe ulteriormente spostare il voto in Georgia. Se vuoi però sentiamo anche la voce di Kelly Loeffler, perché noi siamo dei sinceri democratici, quindi facciamo sentire anche l'altro. Esatto, tra l'altro ieri è successa una cosa strana, perché l'altro scontro è tra David Perdue, che è l'altro candidato al Senato per i repubblicani, e John Ossoff. Anche loro sono abbastanza vicini nei sondaggi, ma vedere l'audio o il video, se volete, si trova facilmente su internet. In realtà David Perdue, che è sotto inchiesta per alcune mosse strane di vendita di azioni prima che venissero resi noti quel famoso rapporto dell'FBI che rivelava quanto potesse essere pericolosa la pandemia, ha venduto molte azioni, ha guadagnato molti soldi prima del crollo della borsa di quei giorni, e non si è presentato a questo dibattito con John Ossoff, che ha fatto questa cosa surreale, due podi, solo che uno era vuoto, lui faceva le domande, cioè rispondeva alle domande, poi faceva le domande al candidato che naturalmente non poteva rispondere. Ma sentiamo Kelly Loeffler. Look, these are more lies from radical liberal Raphael Warnock, someone that has invited Fidel Castro, a murderous dictator, into his own church, someone that has celebrated anti-American, anti-Semite Jeremiah Wright. Ecco, ha colpito molto, lo ricordiamo, l'abbiamo detto ieri, la senatrice Kelly Loeffler è la senatrice col più grande patrimonio personale in questo momento al Senato americano, circa oltre 500 milioni di dollari, e viene molto attaccata per questa sua condizione di privilegiata. Lo ha fatto anche ieri Raphael Warnock, e lei ha risposto dicendo sostanzialmente: zitto tu che hai invitato Fidel Castro nella tua chiesa. Questo è un fatto successo quando Raphael Warnock era molto molto giovane e era a New York, aveva in effetti invitato Fidel Castro a far visita alla sua chiesa di New York. Lei lo definisce un dittatore assassino e poi lo accusa anche di essere antisemita. Sono tutte accuse non dimostrate e per contro i giornali americani, nel fare la cronaca di questi scontri, questi dibattiti ieri, sottolineano che Khalil Loeffler si è rifiutata di rispondere per ben 3 volte a domande dei giornalisti che dicevano: ma lei che cosa pensa di questi ancora persistenti accuse di Donald Trump che le elezioni in Georgia in particolare sono state truccate? Lei sostanzialmente cambiava discorso e per esempio appunto passava a scavare questi sul passato del reverendo Warnock. Allora, abbiamo un dicembre bello movimentato in Gran Bretagna soprattutto, vero sì, Giulia? Dicevi prima dei primi vaccinati e quasi su quasi tutti i giornali americani e britannici c'è la foto di questo signore che ha 87 anni, Hari Shukla, e con sua moglie sono appunto i primi, tra i primi di quei 17.000 che verranno vaccinati. Poi ci sono, sai che agli inglesi piace fare i giochi di parole, siccome Kate e William, eredi al trono, avevano programmato un viaggio in Scozia, che finché non ci sarà un secondo referendum comunque è ancora parte del Regno Unito, e il titolo di Metro è She's got to be joking, quindi non she's got to be joking, che vuol dire ma deve stare scherzando. She's got, Scott come Scottish, perché la premier della Scozia Sturgeon comincia ha detto più volte che forse tutto sommato, anche se sono appunto il principe ereditario e sua moglie, è meglio se se ne stanno a Londra e non vanno in Scozia, magari portando con sé Troppo assembramento, sì. Un po' troppo movimento. L'altra questione inglese è quella della Brexit, sì. e di Johnson, che insomma, sì, sì. Ha dichiarato ancora stamattina, se non sbaglio, che la situazione è positiva. Su tutti i giornali americani c'è questa, su tutti i giornali britannici, scusate, ce l'ho con l'America oggi, c'è questo viaggio di emergenza di Boris Johnson a Bruxelles, perché a questo punto evidentemente vuole parlare direttamente con Ursula von der Leyen, che tra l'altro, sempre in tema di giochi di parole, Brexit Talks, titola un altro quotidiano britannico, Why Ursula von der Leyen anziché de Leyen, che vuol dire la signora che vuole rimandare, certo. Eccetera. Allora, cos'altro scegli tu? Beh, naturalmente poi Bob Dylan, che fa molto effetto questo accordo da 225 milioni di sterline. Che cosa fa? Vende le sue canzoni? Vende tutti i diritti alla Universal. Non so, forse speriamo che voglia costruire un ospedale, perché alla sua età incassare così, e poi cosa se ne fanno questi che siedono poi in tarda età su queste montagne di soldi? Boh. Comunque, siccome appunto è una transazione di un certo valore, sì, economico, prime pagine di Financial Times, Wall Street Journal. Quant'è la cifra? Sono 225 milioni di sterline, che quindi sono qualcosa di più in milioni di dollari, perciò insomma niente male. Che bottino Bob Dylan. Poi se vuoi, insomma, per restare a cose un po' più che purtroppo qui in Italia, sì, devo dire purtroppo mi sembra molto ignorata la questione, l'abbiamo detto, il voto in Venezuela, è l'Universal, uno dei pochi quotidiani semi indipendenti di Caracas, titola secondo gli ultimi conteggi il 68,43% dei votanti, che sappiamo essere stati molto pochi, hanno votato per Maduro, e poi però tutti i quotidiani spagnoli hanno in prima pagina le immagini di Guaidó, il leader dell'opposizione, che dice: ma questo voto non andrebbe nemmeno preso in considerazione, sia per la scarsissima affluenza sia per tutti i dubbi che possiamo avere su come sono stati contati. Però di fatto è forse sempre causa pandemia, siamo molto distratti, e quindi questo voto in Venezuela passerà per quello che è stato, comunque un voto che ha ridato la legittimazione a Maduro. In pochi secondi, perché si è rivisto Sarkozy in Francia? Perché è cominciato il suo famoso processo, c'è una foto di lui sulle Figaro con la mascherina chirurgica azzurra, e ha lanciato una serie di accuse, ha ripreso tutte le teorie secondo le quali tutte le accuse contro di lui sarebbero che sostanzialmente sono di corruzione e malversazioni, sarebbero state intentate dai suoi nemici politici, e che quindi insomma si difenderà, continuerà a difendersi strenuamente, chissà, forse pensa anche magari di ricandidarsi, visto che Macron, causa pandemia, non è più così popolare come quando aveva vinto. E poi Sarkozy non dico che è giovane, però insomma dovrebbe essere ancora per i nostri standard italiani se la può giocare. Grazie Giulia, noi ci risentiamo naturalmente domani. Per la puntata di oggi è tutto, con Jacopo De Franchi in redazione, Pietro La Corte in regia. Noi ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento delle 14. Buona giornata, ciao.